A bordo campo di Dario Ricci. Médaille d'or et champion olympique représentant l'Italie. Gold medalist and Olympic champion representing Italy. Medaglia d'oro e campione olimpico per l'Italia, Enrico Fabris. E beh, l'audio, quello che sentite, è di quelli che non si dimenticano. Torniamo con la memoria a Torino 2006 e torniamo però anche a parlare di una carriera in pieno svolgimento. Lo avete sentito, primo italiano nella storia a vincere non uno ma due ori olimpici nel pattinaggio di velocità da Asiago. Beh, benvenuto a bordo campo, Enrico Fabris. Grazie mille. Enrico, beh, ripensare Torino 2006 credo faccia venire i brividi ancora oggi, no? Sì, fa sempre bene, è sempre una grande emozione ricordarsi delle Olimpiadi a Torino. Sono passati già 4 anni e mezzo, però è come sempre se fosse ieri sera quando abbiamo fatto le gare. Eh sì, insomma, erano i giorni in cui l'Italia, grazie ai tuoi pattini e grazie anche a quelli della staffetta azzurra, scopriva il pattinaggio di velocità, uno sport che invece nel nord Europa, mi viene in mente Norvegia, mi viene in mente soprattutto Olanda, è quasi una religione, no? Tu che gareggi in quegli splendidi anfiteatri, raccontaci un po' l'emozione di trovarsi di fronte a 10.000 spettatori impazziti tipo Torcida brasiliana, ma per i pattinatori sul ghiaccio. Sì, il pattinaggio è molto più sentito ovviamente in paesi del nord, paesi più freddi dove il ghiaccio è una materia un po' più facile da trovare anche rispetto a qua in Italia, dove prediligono gli sport estivi e in inverno vabbè di un po' di più lo sci, e quindi appunto è uno sport dove che è molto sentito, molto praticato soprattutto in Olanda e sopra fra tutti, e perché appunto in passato, essendo piena di canali e di acqua, d'inverno quando ghiacciava diventava una pista all'aperto enorme, disponibile a tutti. Infatti i praticanti nei Paesi Bassi sono più di 20.000 contro i nostri 300-350 a livello agonistico. Poi a seguire la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, la Germania, e poi arriviamo noi dove siamo un po' più indietro, però puntiamo alla qualità, nel senso da un piccolo numero di praticanti cerchiamo sempre di tirar fuori il meglio. Insomma, quando i norvegesi e gli olandesi si sono visti battuti da un mediterraneo come sei te, penso che sia stato anche difficile conquistare il loro rispetto, no? A forza di risultati. È stato difficile appunto emergere da patinatore italiano, però per una nazione come l'Olanda, dove piacciono gli olandesi piacciono le cose originali, no? Quindi vedere uno sconosciuto da un paese dove il pattinaggio è uno sport sconosciuto appunto è stata una cosa molto originale e affascinante. Infatti a loro piace vedere anche atleti stranieri che vincono, e questo è un tifo indispensabile per me e per la mia squadra quando andiamo a patinare all'estero. Direi che invece magari quelle vittorie di Torino hanno avuto un'eredità contraddittoria qui in Italia, no? Grandi entusiasmi nei momenti del successo, tanti bambini che cominciavano a scoprire questo sport, e poi in realtà forse questa ondata in qualche modo è scemata. Qualche rimpianto in merito a questo aspetto? Dal mio punto di vista no, perché comunque io quello che dovevo fare l'ho fatto alla grande. Poi se il pattinaggio non ha avuto il seguito che ci si aspettava in Italia, non è di certo colpa mia, perché ho sempre cercato di portare a casa i migliori risultati possibili, e anche negli anni successivi alle Olimpiadi non mi sono mai seduto, quindi da parte mia ho dato il massimo, di questo sono contento. E ovvio che sarebbe stato bello, sì, vedere e qualche stadio in più, qualche gara importante in più in Italia, e quindi lo stimolo in più che non avrebbe fatto male a me e anche ai miei compagni di squadra. 12 febbraio 2010. Si accendono le luci, i colori e le emozioni di una grande avventura sportiva. Lo spettacolo della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010. Tanto grande il successo di Torino quanto altrettanto forte l'amarezza e le sofferenze di Vancouver, no? dell'Olimpiade più recente. A qualche mese ormai di distanza ti sei spiegato il perché? Ma il perché è sempre difficile da tirar fuori dopo una gara sportiva. Parlo di pattinaggio, ma sono sicuro che sia lo stesso anche per tutti gli altri sport ad alto livello. Ci sono dei periodi nella carriera dove ci si chiede come si fa ad andare così forte, questo è successo a Torino, e degli altri in cui si prova a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle nel miglior modo possibile, però sembra non venga fuori niente. Questo è successo a Vancouver, e alle Olimpiadi di Torino ho cominciato alla grande con la prima medaglia, che era un bronzo, che secondo me è la più importante nei 5.000 metri, e gli altri due ori sono sicuro che sono venuti di conseguenza, perché volavo 5 metri sopra il cielo in quel periodo là, e quindi una cosa tira l'altra, l'entusiasmo fa da protagonista. A Vancouver è successo l'opposto, sono partito nei 5.000 per vincerli, sono arrivato settimo, poi diventa un circolo vizioso e si sta male per l'amarezza e si vede che si va meno sui pattini, e quindi una cosa tira l'altra. Diciamo che quando tutto è andato alla perfezione a Torino, tutto poteva andare un po' meglio a Vancouver, però mi sono rassegnato e ho chiuso il capitolo delle Olimpiadi di Vancouver, e in questo momento sto solamente guardando avanti, anche perché mi sento già molto determinato per i prossimi anni. Guarda avanti anche il movimento olimpico italiano, no? Se una vittoria tra le tante c'è stata a Torino 2006, è stata quella di un'organizzazione molto criticata, discussa prima dei giochi, e poi risultata tutto sommato efficace anche alla luce di quello che si è visto a Vancouver, dove i disagi non sono mancati. Ecco, pensi che l'esperienza di 4 anni fa possa essere un precedente prezioso alla luce di quella che è un'altra candidatura importante, già ufficializzata, quella per Roma 2020? Beh, ma Roma 2020 sono comunque Olimpiadi estive. Io potrò guardarle, vabbè, a meno che non cambia sport in futuro, però è sempre una buona mano, un buon trampolino per lo sport in generale in Italia, come lo è stato Torino 2006. Non tanto per le strutture e facilità che hanno gli atleti, ma soprattutto per uno spirito di squadra e di portare tricolore che c'è solo alle Olimpiadi per quanto riguarda l'Italia. Quello che abbiamo provato noi, io spero che lo possano provare gli atleti che parteciperanno eventualmente a Roma 2020, perché sarebbe una cosa grandiosa per tanti, ma per lo sport. Tra l'altro qua già siamo già al totonomine, qualcuno, più di uno, già fa il nome di Enrico Fabris come portabandiera azzurro a Sochi 2014. Candidatura lanciata, direi, no? Possiamo ufficializzarla, poi non scegli te, però diciamo uno non si tirerebbe indietro. Beh, io ne sarei onorato, è il sogno di tutti gli atleti poter portare la bandiera all'inaugurazione delle Olimpiadi, quindi lotterò al 100% per poter arrivare alle Olimpiadi di Sochi in piena forma e poter rappresentare l'Italia in questo modo, portando la bandiera. Insomma, grande campione, grande talento, però uno viene in mente anche di chiedersi: ma come sei arrivato sui pattini? Visto che qui tra oratori, strade e tutto quanto, insomma, il calcio la fa da padrone anche nel reclutamento dei talenti, no? Come hai scelto questo sport? Beh, giocavo a calcio anch'io quando ero bambino, come l'hanno fatto tutti. È giusto anche che i bambini pratichino tanti sport, tra cui il calcio e perché no anche il pattinaggio. Io il pattinaggio l'ho sempre fatto e mi ricordo di aver sempre pattinato, da quando avevo 5 o 6 anni, perché abito in una delle poche zone in Italia dove il pattinaggio è una tradizione, sebbene non abbia alle spalle l'impianto o la grossa organizzazione che supporta le società, tra l'altopiano di Asiago e Roana, da dove vengo io, e alcune altre zone in provincia di Belluno, di Trento e di Bolzano, sono questi i centri dove è nato il pattinaggio. Io sono nato in uno di questi. E pattinavo all'inizio in un laghetto ghiacciato di Roana, come tutti i pattinatori di un tempo, e poi ho cominciato a praticare la disciplina dello short track allo stadio di Asiago, e pian piano mi sono mosso verso Baselga di Pina in Trentino e la pista naturale di Gaglio, sempre sul altopiano di Asiago, e quindi ho fatto un po' di spola durante gli anni scolastici, che mi ha consentito di arrivare in squadra nazionale a circa 18 anni, e quindi di dover fare una scelta se studiare o andare avanti col pattinaggio, e per fortuna ho scelto di rischiare di diventare un campione. So perché però comunque ancora sui libri sei impegnato, no? Se non sbaglio, con l'università, con gli studi universitari. Ho comunque voluto portare avanti anche la carriera universitaria, essendo consapevole che comunque l'avrei fatto con molta più tranquillità e lentezza rispetto a farlo a tempo pieno. Però in questo momento preferisco concentrarmi al massimo sullo sport e a tempo perso sullo studio, che però sono sicuro che mi verrà comodo un domani. Beh, allora la prossima volta che vieni in calendario anche l'interrogazione, così vediamo la preparazione. Son pronto. A bordo campo. Ancora insieme con Enrico Fabris, oggi nostro ospite a bordo campo. Senti, un campione olimpico varrebbe bene un impianto, viene da parafrasare il detto, no? Si era parlato dopo i successi di Torino di un utilizzo intensivo dell'Oval, proprio di Torino, dove tu hai vinto le tue medaglie proprio per il pattinaggio di velocità. Così non è stato, così come è inevitabile sottolineare che un movimento con così pochi praticanti, atleti di vertice, non ha ancora un suo impianto e un'impiantistica ben strutturata in Italia. È una sofferenza che immagino tu condivida con un Armin Zögler, campionissimo dello slittino, a cui magari non solo quasi quasi tolgono anche la pista di Cesana. Insomma, pensi che si potrebbe far di più da questo punto di vista, e se sì, come, alla luce della tua esperienza sul campo? Beh, un precedente c'è stato, qualcosa è stato fatto, il sogno è esistito, è durato neanche 2 mesi, parlo dell'autunno dell'anno scorso, 2009, quando il CONI ha stanziato una bella cifra a Torino per poter tenere aperto e funzionale l'Oval Lingotto, proprio per noi, per la squadra, per la preparazione olimpica in funzione delle Olimpiadi di Vancouver 2010. Quindi è stato importante per noi questa cosa. Peccato che le Olimpiadi sono ogni 4 anni, dovrebbero essere ogni 6 mesi, quindi avremo 4-5 mesi di ghiaccio all'anno. Però sinceramente adesso non ho alcuna novità riguardo l'apertura del nostro impianto di Torino. Forse se viene organizzata in futuro qualche gara importante potrà avere un seguito, però al momento è anche più conveniente da parte nostra andare a allenarci all'estero. Insomma, vabbè, però ecco, visto che ogni tanto si paga di fuga di cervelli, c'è anche la fuga di pattinatori e la cosa non fa certo piacere. Beh, alludevi appunto al CONI, ricorda ad esempio che era sul campo ed è ancora sul campo con obiettivo Londra 2012 un progetto di collaborazione sull'aspetto tecnologico del vostro sport, che ora ci arriviamo, non è certo secondario, tra il CONI e la Ferrari, e che metteva in punto ricercatori di alto livello e progetti di alto livello proprio per lo sviluppo dei materiali, delle tecniche in diversi sport, compreso il tuo. Ecco, se ne è visto qualcosa sulla strada che va accompagnato a Vancouver? Perché poi i risultati sono stati quelli che sono stati, ma da questo punto di vista pensi si sia fatto il massimo? Ho visto tante belle cose, in parte anche provate, però purtroppo non si è mai arrivati a una conclusione concreta. Nel senso, non ho mai potuto dire ok, provo questa cosa in gara. O per mancanza di ghiaccio, di materia prima, perché dovendo andare all'estero sfruttiamo le ore di ghiaccio che abbiamo per l'allenamento specifico, quindi bisognerebbe avere disponibilità 24 ore su 24 di una propria pista e sarebbe tutto più comodo, o ancora meglio averla in Italia, quindi personale e risorse sono a portata di mano molto più comodamente. Però magari su tanti aspetti di quel progetto, che secondo me era importantissimo e avevo anche molto entusiasmo di parteciparvi, tutte le cose sono arrivate un po' troppo in ritardo e si sono dovute fare in maniera troppo frenetica e senza avere appunto abbastanza tempo per farle, tempo e risorse. Quindi è un progetto che spero sia ancora valido e c'è tutto il tempo nelle prossime 3 stagioni, dico 3 perché questa qua è ormai alle porte, certo. E sarebbe un po' azzardato provarci adesso. Però io sono qua, sono disponibile. Senti, ma alla luce delle difficoltà che abbiamo messo un po' intorno al microfono in questa chiacchierata e che stiamo mettendo intorno al microfono, gli impianti, i progetti realizzati a metà, eccetera, eccetera, ma hai ogni tanto il rimpianto di non chiamarti Van Fabris o Fabregen, insomma, di essere olandese o norvegese? No, assolutamente no. Io sono contento di aver vinto le medaglie per l'Italia e continuerò a combattere per farlo. in tempi in cui ci avviciniamo con passo incerto verso il 150esimo anniversario dell'unità, sentire questa dichiarazione d'amore, per carità, senza enfatizzare, però fa piacere. Ma sì, io ho avuto un'occasione che pochi atleti hanno avuto di poter partecipare e non solo, anche vincere una medaglia d'oro nel proprio paese alle Olimpiadi. Penso sia una cosa unica. Qualcuno ha provato a tirarti per la tuta e a dire: ma guardate, quel Fabris non è italiano, è veneto. Che effetto ti fa? O ti farebbe? Io sono entrambe le cose. Non troverebbero appiglio in un discorso regionalistico con te, come sai, insomma, polemiche, Lega Nord, il Sud, Unità. Insomma, ma non sono mai stato né campanilista né legato alla politica. A me piace fare il mio sport e rappresentare la mia nazione, quindi sono orgoglioso di farlo. Parlavamo di tecnologia e so che da poco la Nazionale Azzurra avrà un nuovo sponsor tecnico, la JECD, che appunto vi accompagnerà nello sviluppo dei materiali. È una delle aziende italiane che tra l'altro era in campo, è stata in campo ed è ancora in campo anche nel nuoto, insieme ad Arena, Adidas, Speedo, in quella che è stata la battaglia dei super costumi, no? Mm-hmm. Vogliamo spiegare a un profano quanto è importante per voi questo aspetto tecnologico? In realtà non si va semplicemente sui pattini e ci vuole una straordinaria preparazione fisica, ma si lavora sui centesimi di secondo e quindi lamine e abbigliamento diventano fondamentali, no? Sì, nel nostro sport è importantissimo questo curare la performance, soprattutto in velocità. La Jacket appunto sta facendo un lavoro con noi pattinatori e sta cercando di creare una tuta molto performante e che sfrutta la loro esperienza in quanto a aerodinamicità di materiali e nell'acqua, l'ha fatto col nuoto, nell'aria, nel pattinaggio. Dal punto di vista di noi pattinatori pensiamo sempre che ogni cosa aiuta e una cosa di questo tipo già il primo impatto ci è sembrata importantissima, e tant'è vero che nel giro di 3 mesi la tuta è quasi pronta per poter fare le gare, quindi potremmo vestire quest'inverno un integrale da gara made in Italy, da una parte, ma soprattutto molto performante. E allora viene da fare anche il confronto, no? Dice: caspita, Coni e Ferrari ci hanno messo una vita, il privato già sta così avanti. Beh, ma bisogna dire anche che il discorso da Ferrari è molto più complesso perché richiede tecnologie molto più avanzate. Il pattino non è che ha alle spalle una cultura, una letteratura molto abbondante e ricca in Italia, quindi bisogna un po' fare degli studi, dei lavori praticamente ex novo. Quindi se da una parte però richiederà un sacco di tempo e di risorse, dall'altra il beneficio sarà anche maggiore. In questo senso sei anche un po' un pioniere, no, di questo sport, tu e Chiara Simeonato in campo femminile ad esempio. Come ci si sente nel ricoprire proprio questo ruolo così particolare? Io mi sento realizzato, fiero di me appunto, soprattutto dopo i giochi di Torino. Poter dire essere il primo pattinatore a vincere una medaglia in Italia e mi ha fatto veramente realizzare un sogno. Un sogno che continuo a portare avanti per appunto continuare a rimanere lì tra i primi, però è la più grande realizzazione di una carriera di un atleta. L'aver realizzato questo sogno non ti toglie un po' di cattiveria? Non ti costa magari un decimo in più in pista? È difficile ricaricare le pile e ritrovare le motivazioni per sognare un'altra Olimpiade, un altro successo, un'altra volta il podio? Ma è questo il punto più delicato di una carriera di un atleta, secondo me. Quando si dice è più dura riconfermarsi che non vincere, è proprio per questo. Perché quando si vince qualcosa di così importante, si rischia spesso, e io qualche volta l'ho provato, a sentirsi a posto. Però sento contemporaneamente dentro di me che non è così, che non sono a posto, che la fame di vittoria c'è sempre. È solo più dura tirarla fuori. Ecco, da questo punto di vista ti rimproveri qualcosa del dopo Torino? Assolutamente no, perché io so che ce l'ho sempre messa tutta. Se c'è stato qualche calo, soprattutto mentale o di motivazione, non è stato assolutamente voluto. Io ho dato sempre il 100% perché volevo rimanere lì tra i primi. Enrico Fabris, prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato il nostro ospite, beh, i prossimi obiettivi sul ghiaccio e fuori dalla pista? Beh, in questo momento nella mia testa ho dei buoni obiettivi sul ghiaccio. Innanzitutto dico che voglio pensare stagione per stagione. Adesso non ho neanche in testa le Olimpiadi di Sochi 2014. Adesso mi sto allenando alla grande fuori dal ghiaccio fino adesso e su ghiaccio dalla settimana prossima in Germania per gli obiettivi principali della stagione. Campionati del mondo a febbraio in Canada, a Calgary, e il mese prima, a gennaio, gli europei a Collalbo, in Alto Adige. Allora, in bocca al lupo, e però studia, che la prossima volta ti interroghiamo. Ok, sono pronto. Grazie Rico Fabris per essere stato ospite di A Bordo Campo. Grazie a voi, ciao a tutti. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci, come tutti i programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Un saluto da Dario Ricci.